Radio Wombat. Step away, my friend, 'cause they know he is just the pure. Ed eccoci, ben ritrovati a 8 Hertz, l'ennesima puntata, la seconda della terza stagione. Ecco, abbasso un po' perché era un pochino alto. E ci hanno fatto fare tardi le due bruscaiole o bruscaiole che cercano sempre di fare boicottare il mio programma, ecco, Nenia e Nina. Maledette. E a parte gli scherzi, in questa puntata ascolteremo un po' di cose che fondamentalmente ho ascoltato nell'ultimo periodo, un po' d'estate, un po' no, e insomma ho ricostruito un po' un viaggetto per voi in stile 8 Hz, spaziando tra vari tipi di dinamiche musicali, generi, antigeneri, anni, si spazia tanto dagli anni 60 il 2018 oggi, quindi insomma ci sono parecchie cose, parecchie influenze, parecchi diversi stili di musica, ma per qualche motivo si uniscono tutti insieme dentro i vostri cervelli e il mio che vi pilota, insomma. E loro erano i pop group con l'ultimo lavoro che hanno fatto del 2016, che si chiama Honeymoon from Mars, e è stato giudicato un po' dalle riviste, per quanto uno ci possa star dietro, come un album fondamentale, che è un po' lo specchio dei nostri tempi. I pop group, se non li conoscete, i The Pop Group, sono un gruppo inglese di Bristol, fondato da Mark Stewart, che è il cantante, nel 1977, quindi siamo in piena fase di inizio e di negli anni successivi, appunto, di post-punk, quello, tra virgolette, classico post-punk inglese, che ha portato avanti fino ad oggi un sacco di gruppi, ha veramente cambiato un po' il mondo musicale in tutto proprio. Però non vi sto a raccontare le dinamiche del post-punk, anche perché è lunga e dettagliata, e ci vorrebbero veramente una decina di puntate per parlare bene, approfondire il post-punk, ma vi basti che insomma proponevano un anti-rock per eccellenza, quindi il nome nel suonare, nella vita, ma anche insomma tutto ciò che poteste immaginare come Led Zeppelin, per quanto mi piacciono, ecco l'opposto, quindi chitarrine secche, una miscela con i vari generi musicali più strani, come il funk, il dub, come in questo caso i pop group, il jazz, il free jazz, insomma tutte cose che, a parte il vero rock and roll e il blues, ecco. Comunque, a parte quello, appunto, loro sono veramente, i pop group sono tra i più importanti gruppi post-punk. Ypsilon, il loro album d'esordio del 79, è stato giudicato tra gli album fondamentali della storia della musica, quindi insomma sono un gruppo grosso. Mi sono venuti in mente da ammettere, perché li vedi quest'estate a un bellissimo festival che si chiama l'Arts Rock Fest, a Chiusi, e a parte è gratuito e invito tutti ad andarci, bello il posto, in una specie di pineta, con banchini, chioschini, insomma tutto molto carino, e loro hanno fatto un concerto veramente formidabile, che tra l'altro per l'occasione hanno fatto questo Noise Set, che è una performance che hanno fatto solo un'altra volta, forse perché erano in formazione ridotta, perché a parte Mark Stewart alla voce e il chitarrista storico, c'era un ragazzo a basso, barra chitarra, barra effetti e le basi, e hanno proposto un total noise a livello di effettistica, dub, di parole, di aggressione, più che non assolutamente metal, ma comunque punk. Mark Stewart non stava zitto un attimo, era secondo me preso benissimo, e tra l'altro è uno, chissà per quale motivo mi ha ricordati Coil, che forse un po' per la voce, per tutta questa diforagine di effetti. Comunque un live che mi è piaciuto veramente tanto, e così vi ho voluto far sentire un po' cosa fanno ultimamente. L'ultimo disco, ripeto, che si chiama Honeymoon from Mars, è veramente veramente bello. Mark Stewart tra l'altro è anche un tipo tosto a livello politico, insomma è spesso, i testi sono abbastanza forti e intelligenti. Pensate che il singolo del disco, ora non mi ricordo come si chiama il singolo, qualcosa con Face, Zipper Face, ecco, il ritornello dice o urla "Who bought your silence? Who enslaved your mind?" Che, insomma, secondo me è come ritornello è abbastanza pensante, ecco, insomma fa riflettere molto, soprattutto oggi. Andando avanti, in quest'estate mi sono messo in macchina questo CD che è di Omar Rodriguez Lopez, che si chiama Old Money del 2009, uscito per la Stone True, che è un'etichetta che fondamentalmente fa rap o hip hop nella sua forma più sperimentale o comunque di qualità elevatissima. E lui è questo musicista americano che è anche scrittore, attore, come fanno in America, fanno un po' di tutto una volta che si è lanciato, e fa parte, o faceva, non lo so perché non li seguo molto, dei Mars Volta alla chitarra, ma anche negli At Drive-In, che sono i gruppi che conoscete di più rispetto agli altri nei quali ha partecipato, così come ha collaborato con John Frusciante e LP o El Productor, sarebbe un altro tipo tostissimo che fa hip hop, e ha fatto uno, secondo me, dei dischi più belli della storia, che si chiama Cannibal Ox. Ve lo faccio ascoltare. Lui fa prog fondamentalmente, miscelato a qualcosa di un po' più pesante e rock, è basato molto sulla improvvisazione, sulle dissonanze, usa veramente un macello di pedali, come potrete ascoltare, e citava in un'intervista che quasi fa lotta con la chitarra, è una sorta tipo la so suonare bene, ma non deve uscire un suono canonico, quindi devo sciupare tutto aggiungendo robe e improvvisando, così vado ben di fuori, faccio andare di fuori anche voi. E infatti ora lo ascolterete, Omar Rodriguez Lopez, e il brano si chiama Trilateral Commission as a Dinner Guest, da Old Money del 2002. ecco, appunto, avete ascoltato il delirio un po' gezzato, anzi parecchio aggressivo, ma freschissimo, e quasi positivo, di Omar Rodriguez Lopez. Tra l'altro è una bella registrazione, una registrazione un po' moderna, tra virgolette, per cui suona anche così bene, vuoi anche per la produzione. E tra l'altro, appunto, è l'unico disco suo, mi pare, uscito per la Stone Throw, che è questa etichetta che cura fondamentalmente il rap. Tornando indietro, ma rimanendo sulla follia, vi faccio ascoltare un gruppo che anch'esso storico del post-punk, perché diciamo un po' la trasmissione è una commistione tra il vecchio post-punk e le cose che possono essere nate oggi, una sorta di sperimentazione che è partita da lì e è andata avanti, o prima anche, è andata avanti, insomma. Voi non vi preoccupate, ascoltate queste cose che è meglio. This It, si diceva che questo gruppo si è formato nel 75, sempre inglese del South London, erano un trio, è già buffo un po' come chi erano loro. Il capoccia, a quanto pare, si chiama Charles Hayward, che era l'unico che sapeva suonare strabene, veniva da un gruppo prog e bravissimo batterista jazz, e appunto che era lì, suonava la batteria, i nastri e la voce. Poi ne parliamo dei nastri. Charles Bullen, che era un clarinettista ma si è applicato nel gruppo come chitarra, e Gareth Williams, che era un gestore di un negozio di dischi che conosceva benissimo, era un cultore di tutto ciò che succedeva nel sottosuolo, ma non suonava niente, insomma. E anche lui, invece, This It, oltre alla voce, suonava anche la tastiera, il basso, i nastri, un po' di tutto di più. Perché sono importanti? Perché appunto, a parte questa formazione un po' strane, queste e anche, insomma, questi personaggi che vengono da vari tipi di musica, hanno usato tantissimo i loop tape o i tape, cioè le registrazioni sul nastro, e ci hanno fatto proprio una stilistica. Oltre a suonare gli strumenti veri e propri, i loro dischi sono un po' un macello di quasi tagli e cuci di suoni. Tra l'altro, anche dal vivo avevano assoldato un fonico, un tecnico, per cui gli registrava anche mentre suonavano i loop tape direttamente, poi li mandava, e quindi fregavano la gente, non sapevano più se suonavano o se facevano finta. Oggi può sembrare una cosa normalissima, visto che con i pedalini di loop, insomma, puoi fare di tutto di più. Però a quei tempi, nel 77, anche dopo, nell'81, come questo disco, era questo brano del disco in questione, non era così semplice da vedere, anzi era proprio un'innovazione, soprattutto appunto per il popolo, visto che c'erano già studi e controstudi sull'uso dei nastri, anche su Hot Wheels ve li abbiamo fatti ascoltare con Filippo Panichi, però diciamo, trovare un gruppo che suonava all'interno di situazioni punk in quegli anni, e quindi per la gente che purtroppo non sapeva niente di musica così particolare, ha comunque influenzato veramente il pubblico e ha divulgato un po' queste tecniche che appunto sembravano veramente assurde, e di fatto lo erano. Il disco in questione è dell'81, si chiama This It, un concept sull'apocalisse nucleare. Adesso ve lo faccio sentire, vi faccio sentire un pezzo che si chiama Makeshift Swahili, che in realtà non ha come predominanza il discorso dei loop. Andatevi ad ascoltare loro, comunque rimetterò degli altri brani in futuro, ma è qualcosa di più mat rock, diciamo, qualcosa che si avvicina all'islint, ma però con un graffio, un'aggressione punk, un'aggressività punk che era degli anni, di quegli anni là. This It, Makeshift Swahili. Buon ascolto. Era La follia dei This It nel secondo disco loro dell'81, che appunto è stato un passato di disco storico, appunto si chiama This It. Adesso siamo ritorno a parlare di un gruppo che amo, ovvero i Coil, in realtà perché è stato un ascolto di quest'estate, perché mi è stato fatto questo regalo per me preziosissimo, che appunto è la versione in vinile di Astral Disaster, che che è uno dei miei dischi preferiti. E per quanto sia dietro i Coil, non sapevo che è molto diversa la versione in vinile, o almeno questa stampa che ho io, che è un po' la ristampa della primissima stampa, diciamo, che fu in 99 copie. Un pezzo sì, meno rispetto al CD, ma anche dei pezzi mixati differentemente, soprattutto un pezzo completamente stravolto, che è proprio il primo del lato A, che si chiama The Sea Priestess, che è bellissimo. E quando l'ho messo su, insomma, ho capito che era quasi un altro pezzo, era totalmente differente. E tra le note nell'album, insomma, nel vinile, c'è un po' la spiegazione di come è stato fatto Astral Disaster. Praticamente è stato registrato da Gary Ramon, che sarebbe anche il chitarrista e formatore dei Sundial, e li invitò nei tardi anni 90, il disco Astral Disaster del 99, a registrare appunto in uno studio, nello studio di Dials, non lo so, che è tra London Bridge Hop Exchange, e praticamente nell'epoca vittoriana quel posto era un vecchio, come si può dire, che lo traduco dall'inglese, una vecchia prigione che era a tre livelli nel sottosuolo, e raccontano che John Balance, uno dei due principali dei Coil, gli notò molto questo posto e fu molto contento di suonarci. In effetti hanno creato un album bellissimo. Raccontano che, insomma, all'interno c'erano rimaste ancora le catene, le manette, le inferiate alle porte in metallo di questa sorta di prigione, che non deve essere stata molto bella. Lì dentro, insomma, ci hanno registrato uno dei più belli album dei Coil. E oltre a John Balance c'era ovviamente Peter Christopherson, ma anche Ty Polsandra e Drew McDowell. Quindi erano in versione quartetto e sono stati con questa formazione per svariati anni. E in più, tra l'altro, Gary Ramon, ovvero chi ha prodotto il vinile e poi il CD, e chi ha registrato, ovvero appunto lui dei Sundial, ci ha anche suonato qualcosa. Ha suonato un sitar e degli effetti. In effetti il sitar è una cosa che si scopre in questa traccia in vinile e non c'è invece nel CD, che poi uscì per la Threshold House come terza ristampa. La seconda è della Acme, che sarebbe appunto l'etichetta di lui, dei Sundial. Ora ve lo faccio sentire. Per me è stato bellissimo ascoltare questo brano in una versione che poi era l'originale, perché il materiale di questo vinile appunto è quello originario, rispetto alla versione che conoscevo. Buon ascolto, Coil, The Sea Priestess. Tra l'altro il testo è magnifico. Parte, ma parte piano, eh. Thank you. coast of Tibet. Egyptian Aztecs arriving from Norway. They've been varnishing the woodwork for 44 centuries. Nature is naked. Acrobats bathed in blood. There's a beast of prey on the threshold of pleasure. And the giant sea priestess beckoning the passers-by. Do not lose sight of the sea. Thank you. eyes, been out in the sun for thousands of years walking along. The women stuff themselves with collagen and other animal remains. I don't think we'll stay here long. Soon as the ships have been rebuilt, we'll be out of here in the sun. Questa era la versione, la prima versione di Dizzy Priestless, che si trova appunto nel vinile Astral Disaster dei Coil del 99, uscito prima per Prescription, che aveva questa sorta di interno copertina, ma anche un po' l'esterno, alla medicinale, appunto con le prescrizioni scritte. E un album dove tra l'altro vengono suonate tante cose, dai Moog ai sintetizzatori, ad altri accrocchi loro, l'Obsidian Mirror, lo Scream Generators, e, il Taut Form, i riverberi, tutti usati in chiave sapientissima per rendere il pezzo equilibrato con veramente poche pennellate ad alta dose psichedelica e di botta, per dirla un po' con un termine più giovane. E tra l'altro, insomma, con questa cosa che vi ho letto un po' in italiano, del perché di chi ha registrato questo disco, appunto Gary Ramon, ho conosciuto e approfondito un po' il discorso Sundial, che appunto erano un gruppo degli anni 90, sempre inglese ovviamente, etichettato in vari modi, dall'alternative rock allo space rock, comunque psichedelicone, acid rock, insomma, shoegaze, anche stoner, hanno fatto svariati album. I primi sono quelli più conosciuti, più famosi, che erano un po' più anni 60, prendevano proprio a pie pari da quel tipo di psichedelia. Ma invece io vi faccio sentire un album del 2012 che è uscito per Tangerine, che si chiama Mountain of Fire, si chiama Mind Control, e è un disco live. L'ultima parte della discografia dei Sundial ripropone anche un sacco di live vecchi, dei cofanetti enormi di CD e vinili, invece questi sono pezzi più o meno nuovi di quel periodo, suonati live. Secondo me mi è piaciuto veramente tanto. Adesso vi faccio sentire la canzone di apertura di questo disco, che appunto si chiama Mountain of Fire Miracles, e godetevela. È un suono un pochino più, diciamo, moderno. Io ci ritrovo anche i loop, quindi Godflesh, tutte quelle diramazioni che sono successe. Thank you. Questa è Radio Wombat, 6 su 8 Hz. Grazie pubblico, che sta, ascoltatori che state ascoltando la nostra trasmissione. Spero che vi piaccia. Proponete qualcosa su postawombat@insiberia.net e potete anche criticare e commentare le trasmissioni. In realtà ci sarebbe anche nel blog, appunto, del sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Sotto ogni programma potete anche scrivere qualcosa di intelligente, insomma, non di cafone. E poi c'è anche un Facebook e un Twitter, che sono usati meno. Comunque, insomma, potete trovare qualche notizia qua e là a seconda del vostro grado di attenzione. Programmi, l'ho detto la scorsa volta, sono ripartiti più o meno tutti. C'è anche Radio Contado, che da frittole, insomma, che propone un programma interamente dedicato alle dinamiche agricole e rurali e contadine, per cui tutto in chiave eccezionalmente carina, simpatica e avvincente, per cui ascoltatelo. Continuo un po' la trasmissione. Volevo parlarvi di Glenn Branca, che sfortunatamente è morto il 13 maggio del 2018, e quindi era un chitarrista compositore americano di New York, e fissatissimo con i concetti di Lamont Young, Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, insomma tutto il minimalismo americano, e lo ha un po' portato al pubblico per quanto riguarda il, tra virgolette, rock, la musica un po' più heavy e distorta. Quindi è stato un anticipatore di tutto ciò che c'è ora, ma non solo. Appunto, come in questo disco, nel brano che vi presento stasera, ovvero Lesson Number 2, tratto da Ascension dell'81, che è il suo primo disco, ha portato avanti quello che tanti definiscono come il suono dei Sonic Youth, degli Swans. È stato uno dei primi avere questo tipo di concetto sonoro, tant'è vero che appunto in quel disco The Ascension ci ha suonato anche Lee Ranaldo, che conoscete appunto come chitarrista dei Sonic Youth, oltre a David Rosenblum, Ned Sublet e Glenn Branca stessa alla chitarra, più un batterista che si chiama Stefan Wischkret. Parlarvi di Branca ormai può sembrare una cosa non so come, quasi data, cioè il suo stile ormai è facilmente riconoscibile nei gruppi che ascoltate, ma in realtà è una cosa che ha formulato e ha iniziato lui. Concerti con volumi altissimi e tappi obbligatori, perché la musica era veramente alta, soprattutto negli anni 80, quando ancora non esistevano gruppi che proponevano questo tipo di potenza, questo tipo di impatto di volume nella musica. E fotore anche di accordature preparate per chitarra, di dissonanze, insomma è stata una persona fondamentale nella musica che tutti oggi ascoltano, ma che nessuno sa che deriva in primis da lui. Non potete ascoltare Godspeed You Black Emperor, ma appunto già citati Swans e Sonic Youth, come se non conoscete quello che ha fatto prima Glenn Branca. Comunque adesso vi faccio ascoltare la prima traccia di quel disco, che appunto si chiama The Ascension. Poi vi farò ascoltare in futuro The Ascension, che è l'ultima traccia. Il disco dura 14 minuti, è un vero e proprio drone, tra cui appunto tra le varie cose è anche uno degli iniziatori del drone nel Levi, insomma. E basta, insomma, ci sarebbe tante cose da dire, ma rischio di dilungarmi troppo. Prima traccia, lesson number two, lui era Glenn Branca, poverino, che adesso ci mancherà. We'll be right back. E parlando di anticipatori, c'è questa anticipatrice che si chiama Patty Waters, che negli anni 60 è uscita per la Esp Disc, l'etichetta, con delle registrazioni di free jazz mischiato a il songwriter che è interconnesso più che mai oggi con la musica attuale. E insomma è stata in realtà molto importante. Questo pezzo che vi faccio sentire è del 65, del primo disco ufficiale suo, che si chiama Sings, e appunto è un traditional che ha come titolo Black is the color of my true love's hair, che è uno dei brani più famosi appunto suoi. E è una versione veramente fantasmatica, quasi potrebbe essere definita come un dark jazz o un goth jazz per oggi come oggi. A quei tempi non esisteva questo tipo di definizione, questo tipo di musica, però insomma non oggi sembra parecchio attuale. Adesso ve la faccio sentire, anche questo è un brano abbastanza lungo, godetevelo perché è parecchio ipnotico, oltre che storto nel suo equilibrio di finezze, ecco. Eyes. Thank you. Questo accadeva nel 1965, che sembra così lontano, ma invece aveva già in quella decade delle sperimentazioni bellissime e moderne che hanno gettato le basi a un sacco di musica odierna. E vi lascio, la puntata finisce con l'ultimo pezzo di questa artista che si chiama Gruper, che è di quella città manifesto di alternative politiche e sociali americane che è Portland. E effettivamente anche questo tipo di progetto di Gruper è veramente particolare, perché sì, è un po' molto ethereal, può essere avvicinabile ai Cocteau Twins e altri tanti gruppi del genere, ma usa, sfrutta melodie antiche e anche rinascimentali. Può ricordare anche Monteverdi, volendo, mischiato a produzioni della Foradì. Interessante è che Tanti dischi suoi si autoproduce e escono per la sua etichetta, fondamentalmente sul Bandcamp, e quindi insomma potete trovare nella sua musica anche tanto folk europeo e un sacco di appunto influenze quasi arcaiche, in una forma che è l'ethereal, che appunto è annacquata, lenta e piena di componenti ambientali e drone, come si dice oggi. E ve lo faccio ascoltare. Questo è un brano che si chiama Little Grey Cat, tratto da uno split con Inca Ore, che è un'altra musicista. E del 2007, appunto, è autoprodotto dalla sua etichetta, diciamo. Con questo vi abbandono, noi ci sentiamo la prossima settimana, grazie dell'ascolto, a presto, Gruper, buonanotte.